Siamo al telefono con Roberto Grandi, presidente dell'Istituzione Musei Bologna. Buongiorno Roberto. Buongiorno, buongiorno a lei e agli ascoltatori. Se teatri e cinema rimangono chiusi, i musei rimangono, come dire, l'ultimo baluardo della cultura ancora aperto. Com'è attualmente la situazione dei musei bolognesi? Sì, direi che i musei sono stati i primi ad aprire, che abbiamo aperto il 18 di maggio, e quindi saranno gli ultimi a chiudere se andrà un lockdown generale come sta avvenendo da altre parti. La situazione è, da un lato abbiamo oltre 200 ore per quanto riguarda i nostri musei di apertura alla settimana, e vediamo che c'è un pubblico che è assente sostanzialmente dai turisti, sono pochissimi, sappiamo che questo è un problema della città ma di tutti i paesi, non abbiamo attività in museo per ora con le scuole. E quindi ci sono visitatori che sono in buona parte o italiani o dell'area metropolitana che tornano nei musei. E per fare tornare nei musei chi già è stato in questi musei, ecco che abbiamo organizzato delle mostre, quindi abbiamo delle mostre che sono nei nostri musei in questo periodo, quindi uno può tornare nel museo e vedere queste mostre. Abbiamo mostre per esempio di Andrea Renzini, la sua mostra Turbo Surplus di arte contemporanea performativa all'interno di un museo classico tradizionale come il Museo Internazionale della Musica. A Mambo abbiamo addirittura due mostre, una che entrambe si chiamano Recollecting, perché significa che mettiamo assieme opere o che sono nei magazzini o opere che sono addirittura in altri musei su un tema, e quindi da un lato al Museo Morandi il fascino segreto dei suoi fiori, e quindi abbiamo fatto una mostra sui quadri di fiori di Morandi, e l'altra invece Castagne Matte, che è appena stata inaugurata, sempre al Mambo, ma non da Morandi, ma al Museo d'Arte Moderna Contemporanea, dove il tema è sostanzialmente il malocchio, il rituale, un tema interessante per una situazione pandemica come la nostra, dove vengono proposti dei quadri che noi abbiamo nei magazzini e che sono estremamente importanti, estremamente significativi, e addirittura ci sono gli amuleti che ci sono stati dati dal nostro museo archeologico e che abbiamo posto in questa mostra per mostrare come gli antichi, molto più di noi, utilizzassero la scaramanzia per combattere la negatività. Abbiamo poi al Museo del Patrimonio Industriale, che continua la mostra Noi siamo la Minganti, quindi una mostra di fotografie e memorie dal 1919 al 2019 della Minganti, che è stata una delle grandi fabbriche ora dismesse del nostro territorio. Abbiamo al Museo Civico del Risorgimento una piccola mostra ma molto significativa, che ha avuto anche un bel riscontro nazionale, che è su Leopoldo Serra, e Leopoldo Serra è il primo bersagliere che è entrato a Porta Pia quando è stata conquistata dai bersaglieri, diciamo, la città del Vaticano, quindi lui è stato il primo. Abbiamo la mostra Etruschi, che continua al Museo Civico Archeologico, Viaggio nelle Terre dei Rasna, che è una mostra di 1400 pezzi che vengono da più di 40 musei italiani e stranieri. E poi abbiamo ancora un'altra mostra alle collezioni comunali d'arte, una mostra di interpretazioni di sculture attraverso la fotografia, una fotografia estremamente così significativa dal punto di vista estetico, che si accompagna e si mette insieme a quelle che sono i quadri delle collezioni. E poi sempre al Museo Morandi, ma al Dipartimento Educativo Mambo, Francesca Cesari ha una mostra di fotografia liminal che è molto interessante, perché fotografa degli adolescenti quando sono nel passaggio a una maggiore maturità, e quindi c'è questa intensità di sguardi, intensità di gestualità. Ecco, quindi ci sono molte occasioni per tornare nei nostri musei, oltre a tutte le visite guidate che facciamo, perché i musei sono un insieme, tutti pensano che siano un insieme di opere, ma sono soprattutto un insieme di storie che partono da quelle opere e quindi ci si può fare affascinare. Chi era abituato ad andare a teatro o al cinema, ecco che se vuole può dedicare un po' di quel tempo per andare nei musei, che sono assolutamente i luoghi che danno meno pericolo, proprio perché ci sono degli slot di pochissime persone che entrano un po' alla volta, e è anche l'occasione per vedere i musei con lentezza, con il tempo personale che ci diamo, perché non c'è un flusso come ci può essere in altre occasioni. Certamente, io la ringrazio per averci raccontato la situazione dei musei bolognesi attualmente, appunto, nella nostra città. Bene, quindi speriamo che avere voglia di fruire significa anche questo, anche perché quello che questo da un punto di vista generale, appena riapriranno i teatri, appena riapriranno i luoghi di spettacoli dal vivo, il cinema, ecco che forse se il pubblico andasse in maniera numerosa dimostrerebbe anche che effettivamente abbiamo bisogno di cultura, vogliamo culture, non sono soltanto gli addetti che lo dicono, ma è il pubblico che sente questa esigenza. Certo, assolutamente, concordo in pieno. Grazie ancora. Grazie a tutti voi.